Allora, continuiamo con le nostre letture di Krishnamurti dal testo La ricerca della felicità. Ci occupiamo del paragrafo in cui parla della mente e di come la mente distrugge l'amore. Avete notato, rivolgendosi ai giovani sempre, quanto siamo curiosi quando siamo molto giovani, appunto. Vogliamo conoscere e percepiamo molte più cose delle persone adulte. Ci basta essere svegli per osservare cose di cui gli adulti non si accorgono neppure. Quando si è giovani, la mente è molto più vigile, molto più curiosa. Ecco perché impariamo così facilmente la matematica, la geografia o qualunque altra materia. Invecchiando, la mente si sclerotizza sempre di più, si appesantisce, si offusca. Avete notato quanto sono pieni di pregiudizi nella maggior parte dei casi gli adulti? Avete notato? Le loro menti non sono aperte, si accostano a qualunque cosa con un punto di vista già precostituito. Adesso siete giovani, ma se non fate attenzione, anche la vostra mente diventerà così. È importantissimo quindi comprendere la mente e verificare se, anziché sprofondare a poco nell'ottusità, sia possibile mantenersi flessibili, capaci di adattarsi all'istante, di agire con intraprendenza, di indagare in profondità e comprendere ogni settore dell'esistenza. Non è forse necessario conoscere le vie della mente per comprendere la via dell'amore? È la mente, infatti, che distrugge l'amore. Coloro che sono semplicemente intelligenti, scaltri, non sanno cos'è l'amore, perché le loro menti, benché acute, sono superficiali. Vivono in superficie e l'amore non è qualcosa che esiste in superficie. Che cos'è la mente? Non intendo semplicemente il cervello, l'organo che reagisce agli stimoli mediante reazioni nervose diversificate e del quale può parlarvi qualunque fisiologo. Noi ci accingiamo invece a scoprire cos'è la mente. La mente che dice io penso, questo è mio. Sono addolorato, sono geloso, amo, odio, sono indiano, sono musulmano, credi in questo, non credi in quello, io so, tu non sai, io rispetto, io disprezzo, io voglio, io non voglio. Che cos'è la mente? A meno che non cominciate adesso a comprendere e a conoscere intimamente l'intero processo di pensiero che chiamiamo mente, a meno che ne abbiamo una consapevolezza piena e autonoma, poco a poco vi indurirete, vi sclerotizzerete, diventerete ottusi, fossilizzati in un determinato tipo di pensiero. Adesso poi affrontiamo la tematica del desiderio e di come il desiderio forma le strutture della mente. Si chiede Krishnamurti: cos'è questa cosa che chiamiamo mente? È il modo di essere del nostro pensiero, non è così? Sto parlando della vostra mente, non della mente di qualcun altro, del modo in cui voi pensate e sentite, in cui guardate gli alberi o i pescatori, del modo in cui considerate gli altri. Col passare degli anni, poco a poco, la mente si deforma o si fossilizza secondo un certo schema. Voi volete qualcosa, lo desiderate, desiderate essere o diventare qualcosa o qualcuno, e questo desiderio determina un certo modello. Ossia, la vostra mente crea un modello e vi resta intrappolata. È il desiderio che sclerotizza la mente. Ad esempio, poniamo il caso che vogliate essere ricchissimi. Il desiderio di ricchezza crea un modello in cui il vostro pensiero resta intrappolato. Riuscite a pensare solo in quei termini, non sapete andare oltre. Di conseguenza, però, poco a poco la vostra mente si indurisce, si offusca. Oppure poniamo che crediate in qualcosa, Dio, il comunismo, un certo sistema politico. Quella stessa convinzione determina il modello, perché è frutto del vostro desiderio. E il vostro desiderio rafforza le mura della prigione costituita dal modello. La mente diventa incapace, progressivamente, di adeguarsi con prontezza, di penetrare in profondità, di vedere con chiarezza, perché siete intrappolati nel labirinto dei vostri stessi desideri. Così, fin quando non cominciamo a indagare su questo processo che chiamiamo mente, fin quando non impariamo a conoscere i nostri modi di pensare, li comprendiamo, non possiamo scoprire che cos'è l'amore. Non può esserci amore, fin tanto che la mente desidera certi aspetti dell'amore o esige che esso agisca in una determinata maniera. Quando immaginiamo cosa dovrebbe essere l'amore, gli attribuiamo certe motivazioni, poco a poco creiamo un modello d'azione riguardo l'amore. Ma quello non è amore, è semplicemente la nostra idea di ciò che l'amore dovrebbe essere. Possesso. Diciamo ad esempio che possiedo una moglie o un marito, così come se possiede un vestito o un cappotto. Mio marito, mia moglie. Se qualcuno vi portasse via il cappotto, provereste preoccupazione, rabbia, irritazione. Perché? Perché considerate quel cappotto di vostra proprietà. È vostro. E il possesso vi dà una sensazione di ricchezza, di sicurezza. Il possesso di molti abiti vi fa sentire ricchi, non solo materialmente, ma anche internamente. E quando qualcuno vi porta via il cappotto, vi sentite irritati perché venite privati di quella sensazione interiore di ricchezza, di quel senso di possesso. Ma il senso del possesso crea una barriera rispetto all'amore, non è vero? Possedere qualcuno è forse amore? Possiedo quella persona come si possiede un'automobile, un cappotto, un vestito, poiché nel possesso mi sento molto gratificato e dipendo da quel sentimento. Per me, interiormente, è molto importante. Questo senso di possesso di una persona, questa dipendenza emotiva da un altro, è ciò che normalmente chiamiamo amore. Ma se lo esaminate attentamente, vi accorgerete che dietro la parola amore si nasconde soltanto la soddisfazione che la mente trova nel possesso. Dunque, nel desiderare la mente crea un modello, e in quel modello resta intrappolata. E così si logora, si offusca, si intorpidisce, diventa irriflessiva. La mente costituisce il centro di questo sentimento di possesso. Il sentimento dell'io e del mio. Io possiedo questa cosa. Io sono importante. Io sono insignificante. Io sono offeso. Sono lusingato. Sono intelligente. Sono bellissimo. Voglio essere qualcuno. Sono il figlio o la figlia di qualcuno. Questo sentimento dell'io e del mio rappresenta il nucleo centrale della mente. È la mente stessa. Quanto più la mente ha questo senso di essere qualcuno, di essere importante, o molto intelligente, o molto stupida e così via, tanto più costruisce intorno a sé delle mura in cui si rinchiude, scivolando nell'ottusità. Allora soffre, perché inevitabilmente in quella prigione c'è sofferenza. E poiché soffre si domanda, e che cosa devo fare? Ma invece di abbattere le mura che la racchiudono, grazie alla consapevolezza e alla riflessione attenta, approfondendo e comprendendo l'intero processo che ha portato alla loro creazione, la mente si affanna a cercare fuori di sé qualcos'altro in cui rinchiudersi. Quindi potremmo dire che la mente passa da una prigionia all'altra. Così a poco la mente diventa una barriera per l'amore. E se non si comprendete cosa la mente, ossia quali sono le vie del pensiero, la fonte interiore da cui scaturisce l'azione, non possiamo neanche scoprire che cos'è l'amore. Adesso Krishnamurti parla per una pagina e mezzo tutto sul tema del paragone, di come il paragone costituisce una delle parti essenziali della mente. La mente funziona continuamente per paragone. Non è forse la mente uno strumento di paragone? Sapete bene cosa vuol dire paragone. Uno dice questo è meglio di quello. Confronta se stesso con qualcuno che è più bello o è meno intelligente. Il paragone è presente anche in un'affermazione del tipo ricordo un fiume che ho visto un anno fa, più bello di questo. Paragonate voi stessi a un santo o a un eroe che rappresentano l'ideale supremo. Questa specie di giudizio comparativo ottunde la mente, anziché renderla più pronta, più aperta, presente a ciò che c'è adesso. Quando passate il tempo a fare paragoni, cosa accade? Quando guardate il tramonto e subito lo confrontate con un precedente tramonto, o quando dite, questa montagna è bella, ma ne ho visto una ancora più bella 2 anni fa. Non state realmente guardando la bellezza che è dinanzi a voi. Il confronto vi impedisce di guardare davvero. Se guardando uno di voi dico, conosco una persona molto più simpatica, non lo sto realmente guardando, non è così? La mia mente è occupata da qualcos'altro. Per guardare davvero il tramonto non devo fare confronti. Per guardare davvero uno di voi non devo paragonarlo a qualcun altro. E solo quando vi guardo davvero, senza formulare giudizi comparativi, che posso capirvi. Quando vi paragona qualcun altro non capisco, mi limito a giudicarvi, dico che siete questo o quello. Dunque, quando si fa un paragone, ecco sorgere la stupidità, perché nel paragonarvi a qualcun altro c'è una mancanza di dignità umana. Ma quando vi guardo senza fare confronti, allora la mia unica preoccupazione è capirvi. E in quella preoccupazione, che non è comparativa, c'è intelligenza, c'è dignità umana. Fintanto che la mente fa confronti, non c'è amore. Ma la mente è sempre impegnata a confrontare, soppesare, giudicare, non è così? È sempre alla ricerca del punto debole. Ecco perché non c'è amore. Quando una madre e un padre amano i propri figli, non fanno confronti fra l'uno e l'altro. Ma voi vi paragonate con chi è migliore, più nobile, più ricco. Siete continuamente occupati a mettervi in relazione a qualcun altro. E in questo modo determinate in voi stessi una mancanza d'amore. In questo modo la mente diventa sempre più comparativa, più possessiva, più dipendente, creando in tal modo un modello in cui resta intrappolata. E non riuscendo a guardare le cose in maniera nuova, originale, distrugge il profumo stesso della vita, l'amore.